Capitolo 14. Giornate di novembre. Le tinte fiammeggianti che avevano incendiato per settimane la costa della baia di Four Winds, scolorendo, avevano lasciato il posto al delicato grigio azzurro dell'autunno avanzato. Per giornate intere i campi e le spiagge furono offuscati da una pioggia greve o flagellati dal soffio di un triste vento di mare. Per molte notti infuriò la tempesta e Anna, svegliandosi, pregava che non vi fossero navi al largo dell'infida costa settentrionale, perché nemmeno il grande faro amico dalla luce impavida avrebbe saputo guidarle in porto. Qualche volta a novembre mi sembra impossibile che possa tornare la primavera, sospirava Anna, avvilita, davanti ai suoi poveri vasi da fiori spogli e gelati. Ora l'allegro giardinetto della moglie del maestro era triste. E i pioppi e le betulle avevano ammainato le vele, come diceva il capitano Jim. Ma il boschetto di abeti sul retro della casetta era verde come sempre, e anche a novembre e a dicembre arrivarono miracolose giornate di sole e foschie violette. La baia danzava, gaia e spumeggiante, come in piena estate, e il golfo era tanto calmo e azzurro da far sembrare un sogno lontano, tempeste e venti in burrasca. Anna e Gilbert trascorsero molte sere d'autunno al faro. Era un luogo accogliente, anche quando il vento dell'est cantava in tono minore e il mare era cupo e grigio. Si aveva l'impressione che lassù si annidasse qualche sprazzo di sole, forse perché vi faceva bella mostra il secondo con il suo mantello d'oro. Grande e splendido com'era, sostituiva quasi il sole e le sue fusa sonore costituivano un piacevole accompagnamento alle risa e alle chiacchiere che animavano il focolare del capitano Jim. Il capitano Jim e Gilbert intavolavano lunghe discussioni, animate conversazioni su faccende al di fuori della portata di qualsiasi gatto. Mi piace riflettere su problemi di ogni tipo, anche se non sono capace di risolverli, diceva il capitano Jim. A sentire mio padre non dovevo parlare di cose che non capivo, ma se fosse così, dottore, gli argomenti di conversazione sarebbero ben pochi. Chissà quante volte gli dèi ridono ascoltandoci, eh? Ma che importa, purché ricordiamo che siamo solo uomini e non ci venga la fantasia di essere noi stessi capaci di distinguere tra bene e male. A mio vedere, le nostre chiacchiere non fanno male né a noi né ad altri. Perciò, anche stasera sfoghiamoci con i nostri dove, come e perché, caro dottore. Mentre si sfogavano, Anna restava in ascolto e fantasticava. A volte Leslie andava al faro con loro e le due donne passeggiavano lungo la spiaggia alla luce irreale del crepuscolo, o restavano sedute sugli scogli ai piedi del faro finché l'oscurità non le riportava al calore del fuoco del camino. Allora il capitano Jim preparava il tè e raccontava storie di terra e mare e le traversie infinite del gran mondo obliato. Leslie sembrava gradire molto le riunioni al faro e in quei momenti si apriva a franche risate, a pronte battute o a un partecipe silenzio. Quando era presente, la conversazione prendeva un tono tutto particolare che mancava in sua assenza. Anche quando non parlava era uno stimolo per tutti loro. Sotto l'influsso della personalità di Leslie, il capitano Jim raccontava meglio le sue storie. Gilbert era più pronto nell'argomentare e nel controbattere, e dalle labbra di Anna sgorgavano spontaneamente zampilli di immaginazione e di fantasia. Quella ragazza era nata per dominare circoli sociali e intellettuali lontano da Four Winds, disse una sera a Gilbert mentre tornavano a casa. Qui è sprecata, completamente sprecata. Non hai ascoltato il capitano Jim e il sottoscritto l'altra sera, quando abbiamo discusso questo argomento in termini generali? Siamo giunti alla consolante conclusione che il creatore è forse più capace di noi di reggere l'universo e che, dopo tutto, non ci sono vite sprecate, se non quando un individuo usa malamente la propria esistenza, e non mi sembra il caso di Leslie Moore. Qualcuno del resto potrebbe pensare che una laureata di Redmond con una promettente carriera letteraria sia sprecata, come moglie di un dottore di campagna, alle prime armi che esercita nella povera comunità di Four Winds. Gilbert! Beh, se tu avessi sposato Roy Gardner, continuò imperterrito Gilbert, ora domineresti i circoli sociali e intellettuali lontano da Four Winds. Gilbert! Gilbert Blythe! È vero che un tempo ne eri innamorata, Anna? Gilbert non è leale, è una meschineria tipica degli uomini, per dirla come la signorina Cornelia. Mai e poi mai sono stata innamorata di lui. Credevo solo di esserlo, lo sai bene anche tu, e sai bene che preferisco essere tua moglie nella casa dei miei sogni diventati realtà che una regina in una reggia. Gilbert non rispose con le parole, ma tutti e due dimenticarono per un attimo la povera Leslie che si avviava sola per i campi verso una casa che non era né una reggia né un sogno diventato realtà. La luna sorgeva dietro di loro sul mare triste e buio, trasfigurandolo. I suoi raggi non avevano ancora raggiunto la baia, che restava in una suggestiva penombra, con le sue cale fosche, le pozze di oscurità più fitte e le rare luci splendenti. «Come spiccano le luci delle case al buio?» disse Anna. «Sono stese lungo la baia come una collana». E che scintillio la sua, Glenn. Oh, guarda, Gilbert, ecco la luce di casa nostra. Sono contenta di averla lasciata accesa. Detesto tornare in una casa buia. È la luce della nostra casa, Gilbert. Non è uno spettacolo magnifico? È una casa tra milioni di case, Anna cara. Ma è casa nostra, tutta nostra, il nostro faro in un mondo malvagio. Quando un uomo ha una casa e una mogliettina dai capelli rossi, che cosa può chiedere di più alla vita? Può chiedere ancora una cosa sola, sussurrò Anna beata. Oh, Gilbert, mi sembra di non farcela ad aspettare la primavera. Capitolo 15. Natale a Four Winds. Dapprima Anna e Gilbert parlarono di andare ad Avonlea per Natale, ma infine decisero di restare a Four Winds. Voglio trascorrere il primo Natale del nostro matrimonio a casa nostra, sentenziò Anna. Così andò a finire che Marilla, la signora Rachel Linde e i gemelli arrivarono a Four Winds per il Natale. Marilla aveva la faccia di chi ha fatto il giro del globo. Mai prima di allora si era allontanata di 100 chilometri da casa e mai aveva consumato il pranzo di Natale fuori dalle mura di Green Gables. La signora Rachel aveva portato un enorme budino preparato da lei stessa. Nulla avrebbe potuto convincerla che una giovane laureata sapesse preparare un budino di Natale decente, ma si degnò di approvare la casa di Anna. Anna è una brava padrona di casa, disse a Marilla nella camera degli ospiti, la sera dell'arrivo. Ho guardato nel portapane e nel secchio dei rifiuti. Una padrona di casa io la giudico sempre da quelli. Nel secchio ci sono solo scarti e non c'è pane raffermo nel portapane. È vero che l'hai allevata tu, però poi è andata all'università. A quanto noto, su questo letto ha messo la mia imbottita color tabacco e in salotto, davanti al camino, quel grande tappeto rotondo fatto da te. Sono cose che mi fanno sentire a mio agio. Il primo Natale di Anna nella casa nuova non avrebbe potuto essere più bello. La giornata era serena e luminosa. Appena una spruzzata di neve caduta alla vigilia imbiancava il mondo. La baia, ancora libera dai ghiacci, scintillava al sole. Vennero a pranzo il capitano Jim e la signorina Cornelia. Erano stati invitati anche Leslie e Dick, ma Leslie trovò un pretesto. Disse che per Natale andavano sempre dallo zio Isaac West. Preferisce così, disse la signorina Cornelia ad Anna. Detesta portare Dick Moore dove ci sono estranei. Il Natale è sempre un brutto periodo per Leslie. Quando c'era il padre si divertiva un mondo. La signorina Cornelia e la signora Rachel non provarono un'eccessiva simpatia l'una per l'altra. Due soli non possono percorrere la stessa orbita. Ma non si scontrarono perché la signora Rachel restò in cucina ad aiutare Anna e Marilla nei preparativi, mentre toccò a Gilbert intrattenere il capitano Jim e la signorina Cornelia. O piuttosto essere intrattenuto da loro, dato che un dialogo tra i due amici nemici di lunga data non aveva mai nulla di noioso. Sono anni che qui non si fa più un pranzo di Natale, Madama Blight, disse il capitano Jim. La signorina Russell per Natale andava sempre in città dagli amici, ma io sono stato al primo pranzo di Natale di questa casa. Lo cucinò la moglie del maestro. Sono passati 60 anni, Madama Blight. Era una giornata un po' come questa, appena un'imbiancata di neve sulle colline e la baia azzurra come a giugno. Ero ancora un ragazzo e non ero mai stato invitato a pranzo fuori. Timido com'ero, mangiai pochissimo, ma è un problema che ho superato. Tipico degli uomini, disse la signorina Cornelia che stava cucendo di gran lena. Non era certo tipo da starsene con le mani in mano, nemmeno a Natale. I neonati nascono senza alcun rispetto per le feste comandate. A Glen St. Mary se ne attendeva uno in casa di gente povera. La signorina Cornelia aveva mandato un pranzo sostanzioso per la nidiata di quella casa e ora intendeva consumare il proprio con la coscienza tranquilla. Beh, si sa, Cornelia, la via che porta al cuore di un uomo passa per la gola, spiegò il capitano Jim. Certo, ammesso che abbia un cuore. Ribatté la signorina Cornelia. Forse è per questo che tante donne si ammazzano a far da mangiare, come la povera Amelia Baxter. È morta l'anno scorso, la mattina di Natale, e parole sue, era il primo Natale da quando si era sposata che non cucinava un pranzo di 20 portate. Proprio un bel sollievo. Beh, ormai è passato un anno e presto si sentirà dire che Horace Baxter dà segni di ripresa. L'ho già sentito dire, commentò il capitano Jim con una strizzatina d'occhi a Gilbert. Una di queste domeniche non era a casa tua vestito a lutto e con il colletto inamidato? Niente affatto. E non vedo perché dovrebbe venire. Potevo prendermelo anni fa, quando era nel fiore dell'età. Non voglio merce di seconda mano, credi a me. Quanto a Horace Baxter, l'estate scorsa era in difficoltà finanziarie e ha chiesto aiuto a Dio. Quando la moglie morì e a lui toccò l'assicurazione sulla vita, gli parve una risposta alle sue preghiere, tipico degli uomini. Hai le prove che l'abbia detto davvero, Cornelia? Ho la parola del pastore metodista, sempre che tu la consideri una prova. Me l'ha detto anche Robert Baxter, ma ammetto che non sia una prova valida. Si sa che Robert Baxter spesso non dice la verità. Su, su, Cornelia. Io credo che generalmente la dica, ma cambia opinione tanto spesso che a volte sembra tutto il contrario. Io direi troppo, molto spesso, credi a me. Ma voi uomini siete sempre pronti a difendervi l'uno con l'altro. Non parlatemi di Robert Baxter. Si è fatto metodista solo perché la domenica dopo le sue nozze, quando entrò in chiesa con Margaret, al momento dell'offerta il coro presbiteriano intonò per puro caso "Ammira lo sposo". Giusta punizione per essere arrivato in ritardo. Per lui era un'offesa voluta, quasi che fosse una persona di rango. Ma quella famiglia si è sempre data più importanza di quanta gliene spetti. Il fratello, Life, era convinto di avere sempre il diavolo al fianco. Secondo me, il diavolo aveva ben altro da fare. Non saprei, disse pensierosamente il capitano Jim. Life Baxter viveva solo, solo, senza nemmeno un cane o un gatto, come tanti poveri cristiani. Se un uomo sta da solo e non ha il timor di Dio, è molto facile che se la intenda con il diavolo. A mio vedere deve scegliere l'uno o l'altro. Se il diavolo è sempre stato al fianco di Life Baxter, vuol dire che lui gliel'ha permesso. Ah! Tipico ragionamento da uomo, disse la signorina Cornelia e si chiuse nel più completo mutismo, dedicandosi alla complessa fattura delle pieghe di un abitino. Ma il capitano Jim sapeva come farla parlare e disse in tono casuale: Sono stato alla chiesa metodista domenica mattina. Avresti fatto meglio a restare a casa a leggere la Bibbia, fu la replica della signorina Cornelia. Su via, Cornelia, mi sembra che non ci sia niente di male ad andare alla chiesa metodista quando nella nostra non fanno la predica. Sono presbiteriano da 67 anni ed è improbabile che la mia fede levi l'ancora adesso che sono vecchio. Dai un brutto esempio, disse la signorina Cornelia severamente. E poi, continuò il capitano Jim con voluttà maligna, avevo voglia di sentir cantare come si deve. I metodisti hanno un buon coro, nemmeno tu puoi negare, Cornelia, che il nostro coro canta orrendamente da quando si è diviso. E che importa? Se il canto lascia desiderare, fanno del loro meglio e per Dio non c'è differenza tra la voce di un corvo e la voce di un usignolo. Su, su, Cornelia, disse bonariamente il capitano Jim, non vorrai dirmi che il buon Dio manca fino a questo punto di orecchio musicale? Qual è stato il motivo della divisione? Chiese Gilbert, che non riusciva a reprimere il riso. Risale alla chiesa nuova 3 anni fa, rispose il capitano Jim. Abbiamo passato dei brutti momenti per la costruzione di quella chiesa. Lo scoglio principale fu il problema del nuovo terreno. I due terreni non distavano più di 200 metri l'uno dall'altro, ma a giudicare dalla lotta che si accese, si sarebbero detti 1.000. Ci dividemmo in 3 fazioni. Una voleva il terreno a est, un'altra quello a sud e la terza quello vecchio. Si lottò a letto e a tavola, in chiesa e al mercato. Tutti gli scandali di 3 generazioni furono riportati a galla e messi in piazza. Andarono a rotoli 3 matrimoni e quante volte ci riunimmo per cercare di sistemare la questione. Cornelia ricorderai, senz'altro, quando il vecchio Luther Burns si alzò e fece il suo discorso. Lui sì che espose con chiarezza il suo punto di vista. Di pane al pane e vino al vino, capitano. La verità è che andò su tutte le furie e li strapazzò per bene. Se lo meritavano, erano un branco di incapaci. Ma cosa ci si può aspettare da un comitato di uomini? Il comitato per la costruzione tenne 27 sedute e alla fine della 27ª non aveva fatto un solo passo avanti, anzi, ne aveva fatto uno indietro perché, preso dalla frenesia, aveva buttato giù la vecchia chiesa. Così ci trovammo senza chiesa e costretti a tenere le funzioni in municipio. I metodisti ci offrirono la loro chiesa, Cornelia. Ancora oggi la chiesa di Glen St. Mary non sarebbe al suo posto, proseguì la signorina Cornelia, ignorando il commento del capitano Jim, se non fossimo arrivati a occuparcene noi donne. Noi volevamo la nostra chiesa ad ogni costo. E non eravamo intenzionate ad aspettare che gli uomini litigassero fino al giorno del giudizio, facendoci diventare lo zimbello dei metodisti. Riunione ne tenemmo una sola, eleggemmo un comitato e organizzammo una colletta. Ebbe un gran successo. Se gli uomini cercavano di metterci in ridicolo, rispondevamo che loro non erano riusciti a costruire la chiesa in 2 anni e ora volevamo provarci noi. Li mettemmo ben bene a tacere, credi a me, e in 6 mesi tirammo su la chiesa. Naturalmente, quando gli uomini capirono che eravamo decise, smisero di litigare e al momento buono incominciarono a lavorare di buona lena o evitarono di fare la voce grossa. O le donne non possono predicare o diventare pastori della Chiesa, ma mettere insieme i soldi per costruirla sanno farlo benissimo. I metodisti permettono alle donne di predicare, disse il capitano Jim. La signorina Cornelia gli lanciò un'occhiataccia. Non ho mai detto che i metodisti manchino di buon senso, capitano, però dubito che abbiano del timor di Dio. Immagino che lei sia favorevole al voto per le donne, signorina Cornelia. Disse Gilbert. Oh, non è che ci tenga tanto al voto, creda me, disse la signorina Cornelia in tono sprezzante. So ben io cosa ci si guadagna a seguire le orme degli uomini. Ma uno di questi giorni, quando gli uomini si accorgeranno di avere inguaiato il mondo e di non riuscire a cavarci dai pasticci, saranno contenti di darci il voto per scaricare i loro guai addosso a noi. Proprio una gran pensata. Oh, meno male che le donne sono pazienti, creda a me. E come la mettiamo con Giobbe? Azzardò il capitano Jim. Già, Giobbe. È tanto raro trovare un uomo paziente che non hanno voluto far dimenticare l'unico esemplare, ribatté trionfante la signorina Cornelia. Comunque non basta il nome di Giobbe per possedere la virtù della pazienza. Non c'è mai stato un uomo più impaziente del vecchio Giobbe Taylor che stava al porto. Beh, sai, Cornelia, le circostanze l'hanno messo a dura prova. Nemmeno tu sapresti difendere sua moglie. Ricordo ancora cosa ne disse William McAllister al funerale. È stata una buona cristiana, non c'è dubbio, ma aveva un carattere infernale. Lo metteva forse a dura prova, ammise con riluttanza la signorina Cornelia, ma non è una scusante per quello che ha detto quando è morta. Il giorno del funerale tornò a casa dal cimitero con mio padre. Non disse una parola finché non furono vicini a casa. Allora tirò un gran sospiro e disse: Non ci crederai, Steven, ma questo è il giorno più felice della mia vita, tipico degli uomini. Certo che la moglie, pace all'anima sua, doveva rendergli la vita impossibile, rifletté il capitano Jim. Poteva almeno salvare la forma, no? Anche se in cuor suo un uomo si rallegra della morte della moglie, dovrebbe evitare di proclamarlo ai quattro venti. Eppure, anche se era contento di essere vedovo, Job e Taylor non ci mise molto a risposarsi. La seconda moglie sì che sapeva come trattarlo. Lo faceva rigare dritto, creda me. Per prima cosa gli disse di spicciarsi a metter su una bella tomba alla prima moglie, lasciandoci lo spazio per lei. Sapeva che morta lei nessuno avrebbe detto a Job di farle la tomba. A proposito dei Taylor, come sta la signorina Lewis Taylor di Glen, dottore? Chiese il capitano Jim. Beh, sta lentamente riprendendosi, ma lavora troppo, rispose Gilbert. Anche il marito lavora troppo per quei suoi maiali da esposizione, disse la signorina Cornelia. Lo conoscono tutti per i suoi maiali. È molto più orgoglioso dei maiali che dei figli. Certo che i suoi maiali sono i più belli che esistano, mentre non si può dire altrettanto dei figli. Ha scelto una fattrice modesta e le ha fatto fare la fame quando li portava in seno e li allattava. I maiali mangiavano la panna e i figli il latte scremato. A volte, Cornelia, devo proprio darti ragione, anche se mi secca, disse il capitano Jim. È la completa verità su Lewis Taylor. Quando vedo i suoi figli, poveretti, e penso alla loro vita grama, mi resta la bocca amara per giorni e giorni. Gilbert andò in cucina, richiamato da Anna. Anna chiuse la porta e gli fece una ramanzina coniugale. Gilbert, tu e il capitano Jim dovete smetterla di tormentare la signorina Cornelia. È da un po' che vi ascolto, non ve lo permetto. Anna, la signorina Cornelia si sta divertendo un mondo, lo sai bene. Beh, non importa. Voi due non dovete continuare a rintuzzarla. Il pranzo è pronto e mi raccomando, Gilbert, non lasciar tagliare le oche alla signorina Rachel. So che vuole offrirsi di farlo perché crede che tu non ne sia capace. Dimostrale che si sbaglia. E ci sfido, disse Gilbert. È da un mese che studio tavole chirurgiche. Però non parlarmi mentre sono in azione, perché se mi sfuggono le lettere della tavola, mi troverò in un pasticcio peggiore di quello capitato tanti anni fa a te durante la lezione di geometria. Gilbert tagliò le oche magnificamente. Dovette ammetterlo persino la signora Rachel. E ne mangiarono tutti con gusto. Il primo pranzo di Natale di Anna fu un gran successo e la novella massaia sprezzava orgoglio da tutti i pori. Rimasero a lungo a tavola con allegria e alla fine si riunirono attorno alla viva fiamma del focolare. Il capitano Jim raccontò antiche storie finché il sole rosso non scese all'orizzonte della baia di Four Winds e le lunghe ombre azzurre dei pioppi non si distesero sul viale innevato. Devo tornare al faro, disse infine. Ho giusto il tempo per rientrare prima del tramonto. Grazie per il bel Natale, Madama Blythe. Una sera porti al faro il signorino Davy, prima che vada via. Voglio vedere quegli dèi di pietra, disse Davy con entusiasmo.